9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabi, eccoci qua con 9 in punto. Oggi parliamo di economia, 16 d'agosto, non sono usciti i giornali, le notizie non ci sono, cerchiamo di darvele noi, l'abbiamo date poco fa nei GR. Una delle notizie riguarda proprio l'ambito economico. La Cina avrebbe sorpassato il Giappone a livello di grandezza dell'economia, a livello di prodotto interno lordo. Una notizia che è anche un po' una non notizia: la Cina ha 1.300.000 persone, il Giappone poco più di 100 milioni, la differenza tra i due paesi a livello di popolazione sono molto forti. A livello di economia, indubbiamente il Giappone ha una grande tradizione, però negli ultimi anni il Giappone è cresciuto molto poco, ha avuto anche lunghi periodi di sostanziale stagnazione. La Cina ha avuto una crescita impetuosa e adesso è arrivata vicina, se non a superare a livello di prodotto interno lordo, il Giappone. L'altra notizia è di qualche giorno fa, di venerdì scorso: la Germania ha fatto segnare nella prima parte dell'anno, soprattutto nel secondo semestre, un record di crescita al 2,2%, un balzo record, un balzo in avanti. Sembra quasi aver completamente diradato le ombre, le nebbie della crisi ed essersi avviata verso una ripresa sostanziale. Allora facciamo il punto dell'economia delle ultime settimane e delle prospettive delle prossime settimane, dei prossimi mesi dell'autunno, che si presenta per tradizione difficile, soprattutto per l'economia italiana. E allora diamo spazio al primo ospite, Luca Paolazzi. Buongiorno Paolazzi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, lo ringraziamo per averci dedicato, per dedicarci alcuni minuti delle sue vacanze. Allora, molto in sintesi, per fare il punto dell'economia, possiamo dire: abbiamo due colossi che stanno correndo, la Cina e la Germania, ci sono gli altri paesi che stanno crescendo ma molto meno. E questa è la fotografia di questo fine estate, di questo inizio autunno, Paolazzi? In generale mi sembra una fotografia che coglie il punto, nel senso che alcune economie sono state più pronte alla ripresa. Per quanto riguarda la Cina, non è soltanto una questione congiunturale, ma di sviluppo, di raggiungimento di standard di vita più elevati per una nazione che è grande come un continente e che quindi ha la capacità, possibilità nei prossimi anni di trainare tutto il resto del mondo come gli Stati Uniti hanno fatto in passato. Per il resto delle economie ci sono in realtà ancora alcuni nodi strutturali che sono emersi con la crisi e che non sono ancora stati sciolti, e questi frenano la crescita, frenano lo sviluppo. Però è comunque una crescita, una ripresa più forte di quello che ci si attendeva, almeno nella seconda metà del 2009 e nella prima metà del 2010. I prossimi mesi vedremo un po' di rallentamento. Ecco, questo vale anche per l'Italia, una ripresa che non è come quella tedesca, siamo attorno al punto percentuale, mi sembra, ma che comunque è una ripresa significativa, una ripresa che è al di là degli stretti dati congiunturali, mostra già una tendenza abbastanza consolidata, Paolazzi. Il problema dell'Italia è che è entrata nella crisi essendo in crisi, cioè una crisi di bassa crescita che è cominciata nella prima metà degli anni 90, è una crescita molto più lenta di quella degli altri paesi europei, e visto che l'Europa cresce meno del resto del mondo, quindi decisamente molto molto bassa. Stiamo uscendo da questa crisi con un rimbalzo della produzione industriale più sostenuto, per fortuna, di quello che si temeva. Tuttavia i nodi strutturali che continuano a frenare l'economia italiana, e che sono l'inefficienza della pubblica amministrazione, la difficoltà a formare un capitale umano adeguato al nuovo contesto competitivo, le infrastrutture che da troppi anni sono state trascurate, giusto per citarne tre, e la concorrenza scarsa nel settore dei servizi, sono nodi che rimangono e continueranno a frenare se non verranno adottate misure di riforma più rapide di quelle finora attuate. Ecco, qui entreremo nel campo della politica. La politica in questa fase non brilla certo per efficienza ed efficacia, sembra molto parlare di se stessa più che di parlare dei problemi e del paese, però di questo parleremo probabilmente nei prossimi giorni. Stiriamo sul campo economico con Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. Uno dei problemi più forti di questa ripresa è che sembra essere una ripresa senza creazione di posti di lavoro. È questo uno dei problemi? Ma in realtà questo è un falso problema, perché in tutte le riprese l'occupazione riparte dopo l'economia, dopo la domanda, dopo l'attività produttiva, così come l'occupazione comincia a scendere, a soffrire dopo il resto del sistema economico, e questo è un fatto legato alla, come dire, fisiologica attesa che le imprese hanno sia nel ridurre l'occupazione quando comincia la crisi, perché comunque rinunciare ai lavoratori significa assumersi dei costi nel licenziamento prima e nell'assunzione poi, nel ricercare e formare le persone successivamente, sia quando c'è la ripresa, perché non si sa bene se questa ripresa è dura, è solida, quanto è forte, di quante e quali persone si ha bisogno, e quindi la ripartenza dell'occupazione è più lenta. Quindi è difficile parlare in realtà di ripresa senza occupazione. La ripresa è sempre senza occupazione, occorrono alcuni mesi prima che appunto il motore del mercato del lavoro si rimetta in moto. Ecco, in questa prospettiva l'Italia è vista molto spesso come un'economia basata su settori tradizionali, settori come quelli dei mobili, dell'arredamento, del tessile, settori che si diceva non avrebbero avuto possibilità competitive in una nuova fase economica. I dati sembrano smentire questa tesi. In realtà, appunto, quello che emerge dall'analisi delle nostre esportazioni è che sempre più l'Italia è fondata su settori che hanno un elevato contenuto tecnologico. Parliamo della meccanica, di una parte della chimica, una parte di mezzi di trasporto, e quindi sono beni che hanno un elevato contenuto di ricerca e di innovazione. È un'immagine un po' un vecchio cliché quello dell'Italia basato su settori tradizionali, pure però sono importanti perché contribuiscono notevolmente sia al PIL, sia all'occupazione, sia alle nostre esportazioni, però per esempio sulle esportazioni hanno un peso che ormai è molto ridotto, intorno al 15-20%, contro diciamo più del 50% dei settori a tecnologia elevata. Non dimentichiamoci comunque che anche nei cosiddetti settori tradizionali l'innovazione è necessaria e le imprese rimangono sui mercati, le imprese italiane riescono a rimanere sui mercati internazionali grazie appunto a un processo di innovazione continua. E anche attraverso un processo di internazionalizzazione, quindi le imprese italiane stanno riuscendo a diventare competitive con una delocalizzazione che non fa perdere tuttavia alla, diciamo così, alla madre patria la possibilità di avere una struttura soprattutto sul fronte della ricerca, soprattutto sul fronte dell'organizzazione, importante e capace di dare una forza, una capacità all'industria italiana, Paolazzi? Più che delocalizzazione parlerei di multilocalizzazione, perché i mercati che crescono e si sviluppano di più, come abbiamo detto all'inizio, non sono quelli vicini a noi, sono quelli dei paesi emergenti, sono paesi lontani non solo fisicamente, geograficamente, ma anche culturalmente, quindi per riuscire a cogliere quella domanda occorre essere presenti in quei mercati, non tanto o soltanto per una questione di costi, ma proprio per essere vicini alla domanda, capire quei consumatori e quindi servirli meglio. Questo impone alle imprese, non solo quelle italiane, quelle di tutto il mondo, di essere presenti direttamente in quei mercati, quindi di localizzarsi anche in quei mercati. La domanda di solito a questo punto è: e a noi che cosa resta? Beh, a noi resta l'ideazione, resta diciamo il comando in un certo qual modo delle operazioni su quei fronti, resta diciamo la testa, la strategia e la capacità delle imprese, l'imprenditorialità, ma anche dei lavoratori di innovare appunto continuamente. Grazie Paolazzi, possiamo concludere dicendo che possiamo essere moderatamente ottimisti per l'autunno? Io direi di sì, assolutamente. Grazie a Luca Paolazzi per questa introduzione. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, ci ha dedicato una piccola parte delle sue vacanze per illustrare la situazione dell'economia italiana, una situazione certamente problematica sotto molti profili, ma che ha al suo interno la capacità, appunto, come sta dimostrando, di superare anche questi momenti di crisi. Allora andiamo a vedere la Germania. La Germania, abbiamo detto, ha chiuso il secondo trimestre con un balzo record del 2,2%, un dato inatteso che ha superato le stime degli esperti, degli economisti, e che sembra avviata la Germania ad avere un record quest'anno di crescita economica. Beda Romano, buongiorno. Beda Romano è corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Allora, ha sorpreso anche la stessa Germania questo dato di forte crescita? Ma forse per certi versi sì, anche se lo avevano percepito le associazioni imprenditoriali, le aziende. Lo stesso governo aveva capito che l'economia stava crescendo e stava recuperando terreno. Il governo è molto felice ed è molto contento, naturalmente. I tedeschi però si rendono conto che stiamo parlando più che di ripresa, di recupero. perché la Germania aveva perso nel 2009 circa il 5% del proprio prodotto interno lordo, aveva subito in pieno la crisi economica e finanziaria che si era venuta a creare dopo il fallimento di Lehman Brothers nel settembre del 2008, e quindi sta assistendo oggi a un forte recupero della propria economia. Ecco, mi sembra importante questa puntualizzazione di Beda Romano, mi serve per presentare un altro ospite che è Francesco Daveri. Buongiorno Daveri. Buongiorno. Ordinario di politica economica all'Università di Parma e collaboratore della Voce Info, e che proprio sulla Voce Info ha scritto un articolo nei giorni scorsi dove si mettono a punto i termini proprio dell'economia. Ecco, io ricordo intanto gli ascoltatori il numero verde 800 24 0024 per le vostre chiamate e per i messaggi SMS il 349 238 6666. Ecco, professor Daveri, giustamente Beda Romano dice si tratta non di ripresa ma di recupero. Beh sì, è un po' lo stesso discorso che si può fare per l'economia italiana, non a caso, dato che sia l'economia italiana che quella tedesca hanno sofferto per quanto riguarda le esportazioni, in modo particolare la crisi, dato che erano all'apice degli sforzi per conquistare nuove quote di mercato, insomma prendersi una crisi globale come quella che c'è stata nel 2008-2009 ha colpito più duramente queste economie. Per l'economia italiana si è trattato di una perdita di produzione industriale di 29 punti da un picco che era stato raggiunto nel periodo pre-crisi nell'aprile 2008 al minimo che è stato nel marzo 2009, quando adesso, come diceva prima Paolazzi, si parla di andamento brillante della produzione industriale, di recupero della produzione industriale, appunto è la parola recupero, la parola chiave, più che non invece record e cose simili. Ecco, non bisogna appunto enfatizzare troppo questi termini dell'economia, trasformare l'economia in una battaglia sportiva, in un confronto sportivo, si rischia di dare appunto un'impressione sbagliata. Allora, torniamo alla Germania con Beda Romano, questo dato del 2,2% è comunque un dato positivo, un dato che dimostra un dinamismo dell'economia. Che cosa c'è alla base di questa positività? Quali sono gli elementi di fondo che hanno permesso all'economia tedesca di superare così la crisi, di avviare appunto certamente un recupero, però una fase sicuramente positiva? Beda Romano. Ma credo che i motivi siano fondamentalmente due. Il primo, di più vecchia data direi, l'economia tedesca ha affrontato una profonda cura di ristrutturazione all'inizio di questo decennio con una forte moderazione salariale che ha permesso alle imprese tedesche di essere più competitive sui mercati internazionali. E poi successivamente, direi dal 2005 in poi, c'è stata da parte delle imprese tedesche una fortissima proiezione internazionale. Le imprese tedesche hanno cominciato a essere presenti e a mettere radici in tutti i mercati mondiali, anche quelli più piccoli, e oggi sono molto presenti in tutti i mercati emergenti, che sono fondamentalmente quelli che stanno crescendo di più e stanno trainando l'economia mondiale. E quindi oggi, in questo momento, la Germania può dire di poter vendere ovunque nel mondo. Lo sta facendo non soltanto con un processo di delocalizzazione, non soltanto grazie a delle fabbriche che ha aperto in Cina, in India, in Vietnam o in Cile, ma anche grazie alla presenza sul terreno in tutti questi paesi di camere di commercio, filiali, uffici di rappresentanza e così via. Quindi la proiezione internazionale del paese non si limita alle grandi imprese industriali o chimiche che tutti conosciamo, ma anche alle piccole e medie imprese familiari che sono riuscite in questi anni a mettere radici sui grandi mercati. Ecco, questo anche con un sostegno da parte dello Stato, da parte pubblica, attraverso appunto una politica estera che era molto attenta, che è stata molto attenta a sostenere anche le imprese tedesche. Forse più facile perché appunto c'è una struttura anche di piccole imprese in Germania, ma la spina dorsale dell'economia tedesca sono le grandi industrie, sono i grandi conglomerati, sono le grandi strutture produttive, i nomi è inutile farli, da Volkswagen, da Siemens, tutte imprese che hanno una capacità appunto di penetrazione, di forza diplomatica molto forte. Quindi questa affinità, questa congiunzione di interessi tra imprese e economia statale ha avuto i suoi effetti, Beda Romano. Ma io non credo che il governo abbia giocato un ruolo particolarmente incisivo. Certo, il governo fa una politica internazionale, fa una politica estera molto più internazionale di quanto non la facesse 20 anni fa, prima della caduta del muro di Berlino, questo è evidente. Il governo tedesco è un governo che oggi cerca di avere contatti in giro per il mondo molto più frequenti e molto più importanti di prima. E naturalmente abbiamo assistito a numerosi viaggi ufficiali del ministro degli esteri o del cancelliere in giro per il mondo, in Brasile, in Cina, in India, viaggi frequenti e a cui partecipano numerosi imprenditori. Questo lo abbiamo visto senz'altro. Non credo però che ci sia da parte della mano pubblica un attivismo finanziario nell'aiutare le imprese tedesche ad essere maggiormente competitive in giro per il mondo. Abbiamo assistito però a delle misure indirette che io trovo particolarmente interessanti. Per esempio abbiamo assistito in questi ultimi 5 anni a molte università pubbliche tedesche che hanno deciso di aprire antenne piuttosto che facoltà, piuttosto che vere e proprie università in giro per il mondo, in Vietnam, in Thailandia, in Cile, in Argentina, in Messico, e queste università tedesche delocalizzate, per così dire, hanno fondamentalmente 2 obiettivi. Prima di tutto è un modo per questi paesi emergenti di recuperare, di ricevere know-how tedesco. E poi naturalmente c'è un altro aspetto. Queste università delocalizzate formano una classe dirigente locale nei paesi emergenti che oggi, domani o dopodomani lavoreranno con le imprese tedesche più facilmente, magari anche parlando tedesco. Quindi una capacità di essere presenti a livello, direi, multidisciplinare, non solo a livello politico, non solo a livello economico, anche a livello culturale, proprio per dare le basi a una presenza che poi può avere e deve avere anche i suoi ritorni a livello economico, come capacità di penetrare su questi mercati in un'economia che ormai è un'economia globale. Ricordo il 349-238-6666 per i messaggi sms e l'800-24-0024 per le vostre chiamate. Vorrei tornare con Beda Romano a un altro tema. Lui ha evidenziato prima nel suo intervento la moderazione salariale come un elemento di fondo che ha dato una struttura più forte alle imprese. Qual è l'atteggiamento del sindacato ora che la ripresa, il recupero diventa più sensibile? Si va verso delle rivendicazioni sindacali o il sindacato ha il realismo della situazione e mantiene quella moderazione che è una delle basi appunto del recupero? Beda Romano. Ma è ancora presto per dirlo. Certo, abbiamo notato nelle ultime settimane dei segnali che lasciano intendere come in alcuni settori i sindacati abbiano il desiderio di strappare aumenti più generosi che in passato. Lo abbiamo visto per esempio nel settore siderurgico, che sarà uno dei primi settori a rinnovare il proprio contratto questo autunno, e il presidente del sindacato ha fatto capire che in questo momento ormai la priorità del sindacato non è più la salvaguardia dei posti di lavoro, ma il salario, aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori e dei dipendenti. Altri sindacati hanno lanciato lo stesso segnale. È un segnale che va preso, credo, con cautela su 2 fronti. Prima di tutto, i sindacati tedeschi sono tendenzialmente molto responsabili, quindi non posso escludere che assisteremo ad aumenti più generosi che in passato, ma non credo che saranno non ci saranno battaglie sindacali per aumenti estremamente generosi. I sindacati tedeschi si rendono perfettamente conto che la partita della moderazione salariale è una partita lunga e che non vale la pena probabilmente mettere tutto a repentaglio per un forte aumento salariale in questo momento. Credo poi naturalmente che bisognerà capire come si svilupperà questa ripresa economica in Germania e in giro per il mondo. Il grande momento di rinnovo contrattuale è all'inizio del 2012, quando verrà a scadere il vecchio contratto metalmeccanico, che è un contratto faro nel settore sindacale tedesco perché riguarda circa 3 milioni e mezzo di persone. Quello sarà il momento chiave per capire come vanno i salari tedeschi. Credo che anche il ruolo della politica possa avere un suo peso in questa partita. Non posso escludere che il governo, dinanzi a una situazione sociale difficile negli ultimi anni, la Germania ha assistito a un forte divario tra i salari e a un assottigliamento della classe media. Non posso escludere che il governo prenda le parti del sindacato e esorti, per così dire, le imprese ad accettare degli aumenti salariali più generosi che in passato. Aumenti salariali che porterebbero con sé anche una crescita dei consumi, cosa che sarebbe abbastanza gradita soprattutto da parte italiana. Non dimentichiamo che la Germania è uno dei mercati più importanti per le esportazioni italiane. Ora, se tutti i paesi vogliono crescere attraverso le esportazioni, qualcuno deve pur consumare, quindi indubbiamente la Cina è un paese che esporta molto, ma che si sta aprendo in maniera molto forte come mercato, ma i mercati tradizionali dei prodotti italiani erano quelli europei e quindi la Germania resta un grande mercato per i prodotti italiani. Beda Romano, come è vista l'Italia dalla Germania in questa fase? Credo da un punto di vista economico direi che i rapporti sono buoni, soprattutto fra le imprese. C'è da parte delle imprese tedesche grande riconoscimento per il valore delle imprese italiane. Le imprese italiane hanno un ruolo molto importante nella subfornitura dell'industria tedesca. Sono cifre impressionanti. Sono stato, per esempio, qualche mese fa, sono stato a Norimberga e lì ho scoperto quanto le imprese tedesche partecipino alla costruzione, per esempio, di automobili Volkswagen, subfornendo e fornendo alla casa automobilistica bulloni, per esempio. Le imprese italiane sono molto presenti in tutta quella che è le macchine utensili, per esempio, sia nella costruzione di macchine utensili che vengono poi acquistate direttamente in Germania, sia nella subfornitura di componenti per macchine utensili. Quindi da un punto di vista micro, il rapporto tra aziende è estremamente vitale ed estremamente dinamico. Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando di economia, stiamo parlando delle prospettive dell'autunno, abbiamo messo a fuoco nella prima parte sia le prospettive italiane con Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, sia il dato tedesco, il balzo record del prodotto interno lordo in Germania nel secondo trimestre con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Abbiamo ancora in linea e lo ringraziamo per la pazienza Francesco Daveri, ordinario di politica economica all'Università di Parma. Prima di lasciarci volevo trasmettere a Beda Romano due domande che sono arrivate attraverso gli sms dai nostri ascoltatori. Uno dice: ma i tedeschi sono arrivati molto meno in Italia per fare vacanza quest'anno, è vero, Beda Romano? Non ho dati per confermare queste ipotesi, mi spiace. È evidente che insomma l'Italia non è più il mercato privilegiato dai tedeschi per fare vacanze. Insomma, i tedeschi viaggiano molto, naturalmente la proiezione internazionale delle imprese tedesche alimenta anche una proiezione internazionale del turismo tedesco, questo è un po' inevitabile. Naturalmente conosciamo la concorrenza spagnola e la concorrenza turca, che è molto forte, soprattutto in termini di prezzi, ma sappiamo anche che vi sono forti legami culturali fra l'Italia e la Germania, e quindi io rimango dell'idea che rimarrà comunque un flusso turistico importante dalla Germania all'Italia per semplici radici storiche e culturali che non verranno meno nei prossimi decenni. Sì, forse i problemi sono più italiani. Io passavo nei giorni scorsi in una città tedesca, guardavo la vetrina di un'agenzia di viaggio e ce n'erano, come capita anche in Italia, decine di offerte di viaggi, e direi che solo una piccolissima parte era con destinazioni italiane. Tutte le grandi destinazioni dei crew operator appunto sono la Grecia, la Tunisia, la Spagna, le Canarie, appunto Spagna, e quindi l'Italia era presente ma molto, in maniera molto molto limitata. Quindi è un problema più dell'offerta italiana che non della domanda tedesca. Un'ultima domanda, forse più una curiosità, Beda Romano, com'è finita la questione Opel? Ah, la questione Opel è terminata molto, molto facilmente. La Opel non è stata venduta né a Magna né a Fiat, è rimasta filiale di General Motors. General Motors ha cercato di avere a un certo punto da parte dei paesi che ospitano stabilimenti Opel in giro per l'Europa delle garanzie creditizie che avrebbero permesso alla società di ristrutturarsi. Queste garanzie creditizie non sono arrivate, soprattutto dalla Germania, che ha bloccato quell'erogazione dei fondi. Risultato, General Motors ha deciso di organizzare la ristrutturazione di Opel con i fondi propri, e lo sta facendo in questo periodo. Ecco, grazie a Beda Romano, che deve lasciarci per altri impegni. Lo ringrazio per questa illustrazione del caso tedesco. Abbiamo ancora con noi Francesco Daveri. Francesco Daveri, ricordo, ordinario di politica economica all'Università di Parma, collaboratore, anzi animatore, uno degli animatori del sito lavoce.info. Come vede questo rapporto tra l'economia italiana e l'economia tedesca? Francesco Daveri. È un rapporto in effetti abbastanza simbiotico, un po' come diceva prima Beda Romano. È vero che per certi aspetti può sembrarci magari un po' poco tranquillizzante l'idea di specializzarci a fare bulloni per l'industria automobilistica tedesca, però questa è solo una parte naturalmente del tutto, cioè la globalizzazione è una cosa più complicata che implica appunto una grande impresa come la Fiat che si sta ristrutturando e certamente non fa bulloni per nessuno, ma è in grado di fornire automobili un po' in giro per il mondo. Questo crea anche problemi, soprattutto nel più breve termine, per il mercato del lavoro italiano, tuttavia, nel senso che tenere solo la testa, come diceva Paolazzi prima, in Italia crea al momento almeno un po' di dubbi su che cosa succederà dei posti di lavoro in Italia, perché tutta la scommessa che c'è, la scommessa globale che fa il sistema italiano come anche quello degli altri paesi, è che la torta mondiale sia sufficientemente grande che i posti di lavoro minori che si creano da noi vengono ricreati grazie alle esportazioni su una torta più grande, insomma una fetta più piccola però di una torta più grande, mentre una volta avevamo il mercato interno che veniva occupato quasi interamente dalle nostre aziende. Ecco, quanto più riusciamo a essere presenti su tanti mercati e a creare opportunità, anche a sfruttare i legami culturali esistenti, non sono gli stessi quelli che i tedeschi hanno con il resto del mondo e quelli che gli italiani hanno con il resto del mondo, tanto più riusciamo a ottenere una relazione positiva, allora tanto più è facile che l'equazione sia anche di creare più occupazione attraverso la globalizzazione. Ecco, ma l'occupazione si crea anche sostenendo il mercato interno, perché se tutti vogliono puntare le esportazioni, qualcuno deve pure lasciarci le penne. Non possiamo pensare che il mondo si regga solo sulle esportazioni di tutti a tutti, qualcuno deve pure importare. Il mercato interno ha ancora spazi per crescere, Francesco Daveri, in Italia. Certo, naturalmente, come dire, il pianeta è un'economia chiusa, quindi a un certo punto non tutti possono esportare, però è vero che ci sono ampi margini di penetrazione di mercati fuori, diciamo extraeuropei, che per noi sono meno, per le nostre aziende sono ancora un po' meno convenzionali, che però hanno tassi di crescita che i mercati europei, i nostri soliti mercati, non si sognano neanche. Nell'attesa naturalmente il fatto di poter sostenere il mercato interno con lo sviluppo essenzialmente dei servizi che servono anche alle aziende per esportare, ma anche dei servizi che servono a noi famiglie, consumatori, a vivere meglio, rimarranno un'importante componente dello sviluppo dell'occupazione, anzi una fondamentale componente di sviluppo dell'occupazione. Lì l'incognita è che cosa succede ai salari, naturalmente, nel senso che se andiamo avanti con lo schema che abbiamo avuto fino adesso, cioè di avere costo del lavoro alto ma salari netti bassi nelle tasche dei lavoratori italiani e insomma i consumi non riescono a decollare. Ecco, senza dimenticare che c'è anche poi un effetto demografico. L'Italia è un paese con la popolazione che ormai non cresce più e quindi anche la crescita dei consumi delle singole famiglie non possono crescere oltre un certo limite. Ci sono anche dei problemi strutturali che pongono dei limiti alla crescita quantitativa. Saluto anche Stefano Fassina. Buongiorno Fassina. Sì. Pronto? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno, responsabile economico del Partito Democratico. Gli lascerò la parola tra poco. Vorrei però prima sentire alcuni ascoltatori che sono già da qualche minuto in linea. Maria Paola da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Senta, io stamattina sto seguendo con interesse la vostra trasmissione. Do 10 a Beda Romano, 10, al resto un 6 scarso. Senta, io ho un marito che per il momento fa consulenza, avendo lavorato in proprio, un ingegnere. E quando sento questi trionfi dei tedeschi mi viene da ridere. Lei ha presente Lula, Obama, noi ci entusiasmiamo di queste persone che emergono, così è la Germania. Mio marito in questo periodo fa consulenza. I stabilimenti dove si fanno le macchine, che fanno le macchine per i tedeschi. E noi siamo veramente dell'eccellenza. Un tempo andavamo in Germania a farci fare le macchine, adesso loro vengono da noi. Perciò, insomma, piantiamola di inneggiare da ieri o l'altro ieri questa Germania, dove gli stipendi non sono altissimi, dove i sindacati non respirano. Ecco, io sono proprio un'italiana autentica. La ringrazio per questa testimonianza. Indubbiamente noi non stiamo inneggiando la Germania, abbiamo preso atto del fatto che la Germania nell'inizio di quest'anno ha avuto una crescita economica molto significativa e stiamo cercando di capire come ha fatto, quali sono stati gli elementi di fondo di questa crescita per cercare di fare come loro, anche se, come ci ha spiegato giustamente Beda Romano, parte di questa crescita tedesca è dovuta anche alle capacità italiane, di offrire gli strumenti perché l'industria tedesca sappia lavorare bene, sappia essere un'industria di qualità, sappia affermare i propri marchi all'interno del resto del mondo. E comunque, ecco, forse dobbiamo anche pensare ad un'Europa che non ha più i vecchi confini nazionali e le vecchie nazionalità e appunto la crescita o è una crescita complessiva o è una crescita comunque fragile. La stessa Banca Centrale Europea continua a parlare di fragilità della crescita. Mario da Catania, buongiorno. No, buongiorno, veramente da Cireale, che è provincia di Catania. Da Cireale, siamo precisi. Sì, precisi. Senta, se la Germania fa il 2,4, l'Italia fa lo 0,4, se la Germania può pagare i propri lavoratori, gli operai, il doppio di quanto li pagano in Italia, significa che qualcosa ci sarà nel nostro sistema. Il nostro sistema, come lei ben saprà, è basato sulle medie e piccolissime imprese che non possono fare ricerca, non possono fare tecnologicamente. La Germania fa le grandi imprese. Io vorrei sapere quante aziende italiane ci sono, per esempio in Guangdong, in Cina, dove c'è una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti. E l'ostracismo che per un certo periodo di tempo il governo italiano ha portato alla Cina negli anni passati, da parte della Lega, ora in parte corretto perché il ministro Tremonti ha capito che non si poteva andare. Quanto ha influito sul fatto che siamo pochissimo presenti in Cina, l'unico mercato che oggi può pagare? Nel Guangdong non mi risulta che ci siano grandissime imprese italiane che esportano. E allora praticamente io penso che è tempo di rivedere sia i nostri contenuti di politica estera, è giusto, facendo a questi della Lega, facendoli stare zitti nel loro recinto, e soprattutto considerare il modello di sviluppo che noi abbiamo avuto in tutto il dopoguerra, perché le piccole micro imprese non possono fare né ricerca né innovazione. Grazie Mario da Cireali, dubbiamente queste sue osservazioni, di là del dato politico su cui parleremo nei prossimi giorni, resta il fatto, l'Italia ha una sua struttura economica che non si può cambiare con la bacchetta magica. Dobbiamo fare in modo che questa struttura economica, che comunque è stata uno degli elementi di forza dell'economia italiana, che ha avuto i suoi miracoli economici, ha avuto la sua crescita e ha raggiunto, non dimentichiamo, i livelli di benessere sicuramente paragonabili a quelli degli altri paesi europei, è una struttura economica che ha la capacità appunto di trovare degli spazi di crescita, di trovare degli spazi per riuscire ad avere delle performance, forse non così alte come quelle di altri paesi, ma sicuramente sicuramente positive, sicuramente qualitativamente positive. Sempre di più dobbiamo guardare a un'economia della qualità più che l'economia della quantità, e anche la qualità della vita all'interno delle imprese, all'interno del sistema economico, all'interno delle relazioni personali ed economiche è altrettanto importante. Quindi su questo fronte non dobbiamo, diciamo così, piangerci addosso, ma prendere spunto dai successi degli altri, che sono anche in parte i nostri successi, per cercare di valorizzare al massimo le cose positive che ci sono. E non dimentichiamo che l'Italia è anche presente in altri paesi, è anche presente in Cina, è presente con Fiat, è presente con Piaggio, è presente con altre imprese, è presente certamente, forse non a livello di altre grandi società come quella tedesca, ma la presenza c'è, una presenza che può essere consolidata, che può essere aumentata. Domenico da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Senti, il mio quesito è questo. Vorrei sapere, siccome io sono un artigiano, ho lavorato per 25, anzi quasi 30 anni per delle grosse aziende che hanno sempre esportato macchine per calzature, macchine utensili, eccetera. Per via della delocalizzazione io mi sono trovato senza lavoro. Per cui questa azienda qui, queste due aziende hanno esportato le loro fabbriche in Cina, in Romania, in Polonia. Io mi sono trovato senza lavoro, avevo 5 dipendenti, io e mia moglie eravamo in 7 persone che portavamo da anni un'azienda che andava in crescendo. Di colpo c'è stato proprio un crollo incredibile, per cui mi sono trovato da solo, senza dipendenti. E io adesso sto facendo, invece di fare l'imprenditore per produrre impianti elettrici su macchine industriali, mi trovo a fare l'elettricista tipico artigianotto che va a fare la riparazione, questo, quello, quell'altro. Io vorrei capire una cosa, perché secondo me questa domanda rovella tanti italiani, ma gli effetti della delocalizzazione, non è meglio paragonare quali sono i benefici e quali sono gli svantaggi? Perché a questo punto la delocalizzazione delle aziende, secondo me, viene prodotta proprio, produce proprio disoccupazione all'interno del paese in cui sta lavorando quelle aziende. La ringrazio. Vorrei una risposta, grazie. Grazie mille. Esattamente, la domanda non ha una risposta semplice. La delocalizzazione indubbiamente ha degli effetti, il suo caso è indubbiamente rilevante, soprattutto dal punto di vista personale ha degli effetti immediati negativi, perché le aziende vengono chiuse, ma le aziende devono rispondere anche alle esigenze di mercato. Se queste aziende non hanno un mercato perché la concorrenza è troppo forte, troppo elevata, allora cercare nuove strade, cercare nuovi mercati, cercare nuove possibilità di crescita attraverso la delocalizzazione è anche una possibilità di salvare queste aziende, che sarebbero costrette se no a chiudere senza avere altre alternative. Però certamente non si possono fare solo dei casi singoli, bisogna anche guardare alla realtà dell'economia. La delocalizzazione è un problema, bisognerebbe trovare dei modi di compensare questo problema cercando di aiutare l'internazionalizzazione delle imprese senza che ci siano delle ripercussioni a livello sociale all'interno. Rieccoci per l'ultima parte del nostro programma dedicato alle prospettive economiche dell'autunno sulla base dei dati molto positivi che sono venuti dalla Germania, con il balzo record del prodotto interno lordo del 2% nel secondo trimestre. Con Francesco Daveri, ordinario politico economico dell'Università di Parma, e Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico, cerchiamo di rispondere un po' alle domande dei nostri ascoltatori. Magari ne sentiamo ancora uno. Marco da Latina, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. I complimenti sono superflui perché ascolto solamente voi come radio, quindi per me è scontato. Grazie. La domanda è questa: ma perché invece di porci il problema alla Germania, come si fa, come non si fa, ne hanno fatto, perché hanno delle indubbie realtà, ci sono hanno pagato i debiti dei loro fratelli orientali e stanno andando avanti. Ma non è, secondo me questa non è la domanda. Ma perché non spingiamo verso l'unificazione europea, magari portando avanti come responsabili in un governo federale quelle persone che hanno dimostrato di poter essere valide? Perché se non si fa così, perché dovremmo chiedere ai tedeschi di partecipare al salvataggio della Grecia? In fin dei conti nessuno ha partecipato al salvataggio della Germania orientale, se la sono pagati da soli. La ringrazio della proposta, che è un po' una provocazione, dato che non riusciamo a fare ad avere un governo stabile in Italia, facciamo un governo europeo, prendiamo qualche ministro degli altri altri paesi che sappia fare veramente il ministro. Penso che sia una provocazione, dovremmo cercare di avere dei governi stabili ed efficienti anche in Italia. Ma non volevo parlare di politica in questa trasmissione, ne parleremo nei prossimi giorni. Mi sembra che il tema di fondo sia appunto quello di un'efficienza del sistema economico, della struttura industriale, della delocalizzazione, che è uno dei temi caldi. Allora su questo punto, particolarmente sulla delocalizzazione, vorrei sentire Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. Fassina. Ma sicuramente è un problema fondamentale che è diventato più visibile in queste settimane, in questi ultimi mesi, a causa o grazie alla vicenda Fiat, ma è un processo che va avanti ormai da due decenni, da quando i mercati hanno abbattuto le barriere e quindi hanno consentito una facilità di movimenti di capitali che prima non conoscevamo. Come lei ricordava, è un processo che ha tanti aspetti positivi, perché ovviamente consente una migliore efficienza, una maggiore produttività, ha anche però aspetti negativi, soprattutto quando le delocalizzazioni, come purtroppo avviene, hanno come riferimento un terreno di gioco, una condizione di gioco che non sono pari. Io credo che il problema che dovremmo porci, e non è un problema che possiamo risolvere a livello nazionale, ma è un problema che va affrontato nella dimensione europea e va affrontato nella dimensione dei G20, è trovare qualche regola che renda questi processi di spostamento delle produzioni un po' meno, diciamo che non producono concorrenza a ribasso, soprattutto per quanto riguarda i redditi e le condizioni di lavoro, perché il grande problema che abbiamo in questa fase, mi pare che lei lo accennava in un precedente intervento, è quali sono le fonti della domanda globale. Il punto è che se delocalizzando si esercita, come è avvenuto in questi anni, una pressione verso il basso delle retribuzioni, la domanda interna di tanti paesi ristagna, abbiamo a quel punto un problema di capire chi compra le esportazioni. Negli ultimi 15 anni i debiti delle famiglie degli Stati Uniti, dei consumatori degli Stati Uniti hanno aiutato questa crescita, perché a fronte di salari stazionari o addirittura in diminuzione in termini reali, l'indebitamento delle famiglie ha fatto da motore alla domanda globale, ha consentito a tutti quelli che volevano esportare, in particolare i paesi emergenti come la Cina, ma anche da noi, Stati Uniti, la Germania e l'Italia, di poter esportare. Ora siamo a un punto in cui i consumatori degli Stati Uniti, per aver raggiunto dei limiti di debito troppo elevati, non lo possono più fare. Quindi questo processo di delocalizzazione, che ha aspetti virtuosi, si scontra con una condizione globale di insufficienza di domanda, e quindi non si riescono poi a bilanciare gli aspetti negativi con gli aspetti positivi. La sfida che abbiamo di fronte a noi, ora al di là di dati congiunturali positivi, molto positivi come quelli della Germania della scorsa settimana, è capire come noi riusciamo, con un coordinamento a livello globale, a livello di area euro, superata la fase acuta delle crisi finanziarie, a trovare qualche regola che consenta di aumentare la domanda globale. È questo il contesto in cui le delocalizzazioni a quel punto possono generare tra effetti negativi e effetti positivi dei risultati positivi, non solo in termini di profitti per le imprese, ma anche di impatto sull'occupazione, perché poi è vero che siamo di fronte a una ripresa, ma è una ripresa ancora molto fragile, incerta, e soprattutto è una ripresa senza occupazione. La sfida di fronte a noi credo sia questa, fare in modo che, e sono molto d'accordo con, anche se mi rendo conto della difficilissima fase politica, sono molto d'accordo con l'ascoltatore che ricordava la necessità di una politica economica a livello europeo. L'Europa è un'area con quasi mezzo miliardo di persone, di consumatori, è un'area che ha ancora un quarto del PIL mondiale. L'Europa non può fare affidamento solo sulle esportazioni, ha bisogno di sostenere la domanda interna. Con una politica economica comune noi potremmo affrontare questa fase difficile che implica anche dei processi di ristrutturazione importanti nei singoli paesi, potremmo affrontarla con un sostegno che consenta alle economie europee di avere una qualche autonomia rispetto alle esportazioni, perché anche il dato della Germania va collocato nel quadro in cui è, e cioè il fatto che la Germania esporta per due terzi in Europa, ancora esporta in due terzi in Europa, un'Europa che viene investita da processi di risanamento delle finanze pubbliche come quelli in corso o preannunciati per il prossimo anno, è un'Europa che tenderà a crescere meno e ad avere anche effetti di minor traino sulla Germania. Quindi io sono un po' scettico di fronte a questa visione di una Germania che può prosperare indipendentemente dalle condizioni del quadro europeo. E quindi anche di una Germania che può fare da locomotiva un po' all'Europa, dovrebbe essere una crescita complessiva quella europea, ma in questo lo spazio appunto per ridare fiato un po' ai consumi interni, ai consumi che non sono solo quelli delle famiglie, sono anche i consumi pubblici, i consumi per le infrastrutture, vuol dire offrire, dare la possibilità di avere delle risorse. Le risorse delle famiglie aumentando i salari, ma aumentare i salari vuol dire far perdere competitività alle imprese, gran parte poi dei salari reali risentono del cuneo fiscale, cioè del fatto che il costo per l'impresa è molto più alto di quello che poi concretamente va in tasca al lavoratore. Allora Fassina, come politica economica, forse quella di partire da ridurre il peso dello Stato, ridurre il peso delle tasse e dare attraverso la riduzione delle imposte maggiori salari può essere una strada percorribile per l'Italia? Io penso proprio di sì, anzi io credo che uno dei limiti principali della politica economica del governo sia stato questo, di non sollecitare la domanda interna attraverso una riduzione della pressione fiscale sui salari, sui redditi più bassi, ma anche sui profitti. È evidente che lo dobbiamo fare in un contesto di finanza pubblica molto difficile, però noi abbiamo due fonti di entrata per compensare, per coprire, come si dice in gergo, i costi di una riduzione delle imposte sui redditi più bassi, che sono da un lato il nostro enorme serbatoio di risorse evase, dall'altro non trascurabile anche i redditi di capitale. Lei sa meglio di me che l'Italia è uno dei paesi che tassa i redditi di capitale con un'aliquota che è tra le più basse, forse la più bassa a livello europeo. Un governo conservatore come quello del primo ministro britannico Cameron, nella manovra di un mese fa, nella manovra di finanza pubblica di un mese fa, ha innalzato la tassazione sui redditi, sui capital gain dal 18 al 28%, noi partiamo dal 12,5%, portare l'aliquota al 20% consente di recuperare un qualche gettito da poter utilizzare appunto per alleggerire il carico fiscale sui redditi più bassi, in questo modo sostenere la domanda interna. Sì, questo può essere sicuramente una strada, anche se in parte resterebbe una partita di giro, perché i redditi di capitale derivano in parte almeno dai titoli pubblici in cui appunto poi la tassazione deve essere incorporata nel prezzo, ma l'altra strada, mi permetto di aggiungere, è quella di riduzione del peso dello Stato, riduzione della spesa pubblica, riduzione dei costi della politica. Ci avviamo alla conclusione, vorrei con Francesco Daveri appunto mettere a fuoco anche la terminologia che dobbiamo usare. Quale terminologia dobbiamo usare per l'autunno, guardando in avanti alle prospettive dell'economia italiana? Francesco Daveri. Ma adesso non so bene che terminologia potremmo usare, bisognerà vedere cosa succede nel terzo e nel quarto trimestre. Allora, da un lato abbiamo che sul fronte della politica fiscale la corretta adozione del pacchetto di aggiustamento dei mesi scorsi certamente influirà su una parte sulle decisioni di consumo, almeno di una parte dei consumatori italiani, in particolare i dipendenti pubblici e poi anche indubbiamente quelli che così beneficiavano o beneficiano ancora dell'avere contratti con enti locali e regioni, che indubbiamente vedranno una qualche riduzione dei loro redditi a causa di questo aggiustamento. Quindi questo influirà negativamente sulla domanda interna. Se questo avvenga nel terzo trimestre o nel quarto trimestre è una cosa che rimane da vedere, ma ci sarà un effetto in questo senso. Sul fronte delle esportazioni però per ora le cose vanno a gonfie vele, rimane però da ricordare anche un altro dato, cioè che per esportare bisogna anche importare di più. Queste sono alcune delle evidenze che emergono dai dati disponibili, e il boom degli ultimi mesi delle esportazioni italiane ha portato anche un boom un po' più alto che in passato delle importazioni, vuol dire che in effetti per poter esportare c'è bisogno anche di peggiorare un po' marginalmente, certo, la nostra bilancia commerciale. Non dimentichiamo, non tutto rimane dentro al PIL. Infatti, non dimentichiamo che l'Italia, per esempio, per l'energia dipende al 90% dall'estero, e per produrre di più ci vuole più energia, e quindi aumentano anche i costi che dobbiamo sopportare. Certo. Ma costi che sopportiamo volentieri se riusciamo a crescere, se riusciamo a creare posti di lavoro, a dare redditi sufficienti, come peraltro siamo abituati alle famiglie. Io ringrazio Luca Paolazzi, che ci ha accompagnato nella prima parte, direttore del Centro Studi Confindustria, così come Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Ringrazio Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico, e Francesco Daveri, ordinario di politica economica all'Università di Parma e collaboratore della Voce Info, per essere stati con noi. Ringrazio Alessandro Marco Tulli in redazione, Peter Bascapè in regia. L'appuntamento è per domani.